Ed eccoci giunti, carissimi, al nostro abituale appuntamento col Santo Curato d'Ars, giunto ormai alla sua 72esima puntata. Come ricorderete, stiamo raccontando il suo ultimo anno di vita e precisamente gli avvenimenti del 1858, che è l'anno di Lourdes, come sapete, e del 1859, che è appunto l'anno in cui Dio lo chiamò a sé, nel mese di agosto. Purtroppo dobbiamo registrare anche in quest'ultimo anno di vita molte penitenze da parte sua, vero? Si direbbe che quest'uomo era davvero irriducibile, perché pur essendo vecchio e malato, tuttavia non rinunciava alle sue tristemente famose abitudini di digiunare e di flagellarsi. Anche se ora il suo fisico incrollabile non reggeva più bene come una volta, ma comunque reggeva, reggeva ancora in modo sufficiente. Abbiamo detto inoltre che in questo ultimo anno di vita faceva parecchio fatica ad alzarsi il mattino, e questo mi pare più che comprensibile, più che logico, vero? In un'età in cui di solito ci si riposa e si vive e si sostiene un ritmo di vita più ridotto, lui invece continuava ad alzarsi prima dell'alba per far fronte ai molti impegni e per riuscire a smaltire le lunghe file di penitenti che passavano la notte in bianco per potersi confessare da lui l'indomani. Beh, ascoltiamo ora le parole di Don Toccanier, che ci testimoniano appunto la sfinitezza del curato d'Ars. Dice: «Un giorno il curato mi confessò», e racconta Don Toccanier, «che nell'andare in chiesa era caduto 4 volte e si era rialzato con grande fatica. Glielo ricordai un'altra volta, in cui mi sembrava molto stanco, ed egli mi rispose: "I peccatori finiranno per uccidere questo povero peccatore". E qui dobbiamo ricordare, carissimi, quello che a più riprese abbiamo già detto, che cioè verso le 4 o le 5 del mattino, e così anche nel primo pomeriggio, egli provava un gran bisogno di dormire. E per quanto cercasse di resistere e di far scorrere tra le dita i grani della sua corona, tuttavia finiva qualche volta per assopirsi. E qui va anche detto, a onore dei suoi penitenti, che in genere in queste occasioni essi interrompevano le loro confessioni per lasciargli qualche momento di riposo. Allora, carissimi, a questo proposito ascoltiamo la testimonianza del suo vicario Don Toccanier circa un colloquio avuto con lui. «Padre mio», gli aveva chiesto il vicario, «se il Signore vi lasciasse scegliere tra l'andare subito in cielo o il rimanere ancora a lavorare sulla terra, come voi fate per la salvezza dei peccatori, che cosa scegliereste?» Risposta categorica: «Resterei». Al che il vicario ribatte: «Ma pensate che in cielo i santi sono felici, non soffrono più e non sono tormentati dalle tentazioni?» Risposta: «Sì, sono felici i santi, ma vivono di rendita, perché hanno già lavorato bene. Dio punisce la pigrizia e premia il lavoro. Ma non possono più, come noi, conquistare delle anime a Dio mediante il lavoro e la sofferenza». Allora qui, come già sapete, Don Toccanier si fa audace e dice: «Se il Signore vi lasciasse qui fino alla fine del mondo, voi avreste tanto tempo a vostra disposizione. Vi chiedo, continuereste ancora ad alzarvi così presto?» Risposta: «Sì, amico mio, mi alzerei sempre a mezzanotte. Non è la fatica che mi spaventa. Io sarei il prete più fortunato se non mi tormentasse il pensiero di dovermi presentare al tribunale di Dio come parroco». E dicendo questo, 2 lacrimoni gli solcarono le guance silenziosamente. Beh, adesso, carissimi, parliamo di un'altra cosa, e precisamente del proposito di costruire una nuova chiesa. Cominciamo a dire che il curato sentiva sempre di più il peso delle sue sofferenze. «Ma simile al sole, che vicino al tramonto risplende di raggi che sembrano più infuocati, così la sua anima irradiava uno splendore più intenso, quanto più si avvicinava al termine della prova. E per quanto il suo corpo fosse tormentato dal dolore, il suo spirito tuttavia rimaneva libero e il viso era sempre calmo e sorridente. E il biografo dice che nulla tradiva agli occhi dei pellegrini lo spasimo interiore, perché quando si sentiva al colmo della sofferenza resisteva, fino al momento in cui si accorgeva di essere circondato solo da persone conosciute, già consapevoli delle sue miserie. Allora, lasciandosi cadere sopra una sedia, diceva con mitezza e con senso dell'umorismo, diceva «c'è proprio da ridere». Questo evidentemente per non dire «c'è proprio da piangere». Bene, pur in questo stato di salute e di sfinitezza estrema, rimanendo tuttavia sempre intraprendente e attivo, verso la fine del 1858 aveva fatto predicare una missione nella sua parrocchia. E al predicatore diceva scherzosamente, ma non troppo, «Questa volta riuscirete a convertirci». Nel medesimo tempo, insieme all'architetto Bossan, studiava il piano della bella chiesa che voleva costruire in onore di Santa Filomena. E qui dobbiamo dire, carissimi, che regolò egli stesso il conto dell'onorario dovuto all'architetto, offrendogli cioè un magnifico e preziosissimo rosario. Qui attenti, l'imperatrice Eugenia, commossa per ciò che sentiva raccontare sul curato d'Ars, gli aveva fatto consegnare un rosario molto prezioso, che aveva la croce, il cuore, gli anelli della catenina e i grani del Paternoster d'oro, mentre i grani dell'Ave Maria erano di corallo. E la croce di questo prezioso rosario recava in un medaglione centrale ricoperto di vetro alcune reliquie di San Giovanni Evangelista e di San Pietro in vincoli. Ma siccome la nuova costruzione sarebbe stata molto costosa, 4 mesi prima di morire, cioè all'inizio dell'aprile 59, aprì una sottoscrizione nella quale egli figurava per primo con 1.000 franchi. E nelle ultime righe, scritte di suo pugno, diceva «Pregherò il Signore per coloro che mi aiuteranno a costruire una bella chiesa a Santa Filomena». Ecco, fermiamoci un attimo adesso, carissimi, poi riprenderemo subito. Ebbene, verso la fine dello stesso mese radunò gli uomini che avevano fatto la Pasqua, che cadeva quell'anno il 24 aprile, e parlò loro allo stesso modo di Mosè, che prima di morire aveva raccolto il popolo di Israele. «Figli miei», disse fra l'altro, «com'è bella l'azione che avete compiuta! Adempiendo al vostro dovere pasquale, avete preparato a Dio la dimora del vostro cuore, e state preparandogliene un'altra, fabbricandogli una bella chiesa. In altri tempi, fratelli miei, venivo io a visitarvi, e voi non mi avete mai rifiutato nulla. A voi vada perciò il mio ringraziamento. Oggi invece è il missionario che viene a visitarvi, Don Toccanie, il mio vicario. Ma è come se fossi io, perché lo accompagno con tutto il mio cuore. Purtroppo ci sono ancora dei peccatori nella parrocchia, e bisogna che io me ne vada perché un altro possa convertirli». Ecco, questo era per gli uomini di Ars il suo umile non dimittis. Difatti molti videro nel suo discorso la parola di addio e compresero che la morte del loro curato non doveva essere lontana. E qui, carissimi, affrontiamo subito un nuovo capitolo che il biografo intitola «La pace della sera». Ecco, diciamo subito che se qualche volta sembrava temere ancora i giudizi di Dio e se tremava al pensiero di morire curato, come era solito dire, tuttavia non era più incerto circa la sua vera vocazione. Non aveva forse fatto tutto quello che dipendeva da lui per lasciare il suo posto? Ormai era persuaso che solo Dio lo avrebbe tolto da Ars. E per questo il suo timore era temperato da una confidenza piena d'amore. La famosa contessa di Garé dice che nell'ultimo anno di sua vita venne una volta al castello, ci parlò dell'amore di Dio e pianse. E spesso anche dal pulpito, dopo aver cominciato un altro argomento, ritornava sempre a considerare il suo argomento preferito, cioè nostro Signore presente nella Santissima Eucaristia. E notate, il fascino per la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia aumentò in modo ancora più sensibile verso il termine della sua vita. Per cui predicando spesso si interrompeva e versava lacrime e la sua figura diventava luminosa. Allora non si udivano altro che gemiti ed esclamazioni d'amore. E qui, carissimi, io penso che si possa fare senz'altro una affermazione fondamentale circa questi ultimi anni di vita, che cioè con la sua continua lotta aveva acquistato veramente la calma dei forti. E lui stesso ingenuamente confessava: durante la mia prima malattia vi era ancora qualcosa che mi turbava, ma ora, grazie a Dio, non vi è più nulla. E dobbiamo anche dire che, grazie a Dio, erano scomparse anche le prevenzioni degli uomini, poiché ora tutti avevano per lui il massimo riguardo, la massima stima. E il suo vicario, Don Toccanieri, dimostrava apertamente il suo cuore di figlio. E se Don Vianney aveva da fargli un rimprovero, a lui e ai suoi confratelli missionari era proprio quello di essere troppo premurosi verso di lui. E un giorno, quando ripeteva questa sua osservazione al vicario, Don Toccanier ebbe la felice idea di rispondergli: «Sta scritto, onora tuo padre e tua madre, se vuoi vivere lungamente sulla terra». E in quell'occasione il sorriso radioso che illuminò il volto di Don Vianney dimostrò pienamente come lo avessero colpito quelle parole. Ecco, e qui, carissimi, si deve dire anche una cosa, mi pare molto, molto notevole, che di solito l'isolamento, l'infermità, la noia di vivere, eccetera, finiscono per inasprire molti vecchi, vero? I quali, diventati insopportabili a se stessi per le proprie miserie, non sanno sopportare neppure il prossimo. Ma questo non fu certo il caso di Don Vianney. Anzi, Don Vianney non solo conserva fino alla morte una bontà squisita e indulgente, ma queste sue doti morali le accresce sempre di più. Ebbene, 5 mesi prima di morire, ricevette 2 strane visite, una delle quali era Paolina Jaricot, una ricca signora convertita, che ora però era ridotta in miseria, in condizioni miserevoli, ed era molto affranta. Con lei c'era un'amica. Erano giunte sotto il vento gelido di tramontana e sotto la neve, per cui erano letteralmente assiderate. Il curato le ricevette nella sua camera e scese subito per cercare un po' di paglia con qualche arbusto per accendere un buon fuoco. Ma la paglia era umida e il fuoco perciò si spegneva subito non appena veniva acceso. «Ve ne prego», disse Paolina, «non tentate più di rimediare al freddo, ci sono abituata, piuttosto riscaldate la mia povera anima con qualche scintilla di fede e di speranza». Per cui il santo consolò quell'anima tanto provata, per mezzo della quale Dio aveva fatto grandi cose. Ma il colloquio fu necessariamente breve, perché vi erano altri pellegrini che assediavano la canonica e reclamavano il loro confessore. Allora Don Vianney consegnò a Paolina una piccola croce di legno, simbolo muto della rassegnazione alla santa volontà di Dio, e si allontanò dopo aver benedetto le 2 visitatrici inginocchiate ai suoi piedi. Facciamo un'altra piccola pausa, carissimi, poi continueremo e concluderemo. Qui allora, carissimi, iniziamo finalmente l'ultimo capitolo intitolato «L'ultima malattia e la morte». Parliamo prima, seguendo il biografo, del presentimento che il nostro santo aveva della morte vicina. Ecco, diciamo subito che senza dubbio il santo curato d'Ars non solo ebbe molto tempo prima la sensazione dell'avvicinarsi della morte, ma ne conobbe quasi certamente in anticipo anche la data precisa. E Caterina ci racconta che dopo l'ultimo tentativo di fuga d'arte nel 1853, il curato non parlò più della sua partenza dalla parrocchia, ma piuttosto parlò del suo trapasso dalla vita terrena all'eternità. Soleva ripetere, infatti, ormai ce ne andiamo, bisogna morire e presto. Sappiamo che prima del Corpus Domini del 58 aveva ricevuto in dono una bella fascia. Caterina gli disse, vi servirà durante la processione per sostenere lo stensorio. Ed egli rispose con un misterioso sorriso, non me ne servirò due volte. Difatti la festa del Corpus Domini del 59 si sentiva già così debole che non aveva più la forza di portare il Santissimo Sacramento neppure da un altare provvisorio all'altro, per cui glielo consegnarono solo al momento della benedizione. E qui attenti, un altro fatto molto interessante. Per la festa dei Santi del 58 mandò Caterina al castello per riscuotere la somma annuale che i proprietari si erano impegnati di offrire alla Chiesa, di offrire alla parrocchia. E con un po' di esitazione disse, sarà l'ultima volta, ma subito ripeté con tono deciso, sì, questa sarà l'ultima volta. E qui un altro fatto impressionante. Il mese prima di morire si presentò al suo confessionale una signora, una fervente cristiana di Saint-Étienne, che ogni anno con suo marito faceva a piedi il pellegrinaggio al famoso santuario della Louvesque, dove è sepolto San Francesco Regis. Bene, il curato parlò alla donna, anche in questa occasione, di quel grande santo, da lui molto venerato, di cui aveva visitato la tomba con l'animo riconoscente per tanti favori ricevuti, specie in gioventù. E la signora, salutandolo, esprimeva il suo dispiacere perché non avrebbe più potuto ritornare ad Ars. Entro poco tempo. Al che il santo rispose con sicurezza, ci rivedremo fra 3 settimane. Per cui, durante il ritorno, la pia signora, ricordando queste parole, pensava, non senza qualche dubbio, che forse il curato sarebbe passato per Saint-Étienne, sua città. E giunta a casa riferì in famiglia le parole misteriose. Ebbene, 3 settimane dopo, il curato d'Ars e la sua pia penitente, morti quasi nel medesimo istante, potevano rivedersi in cielo. E qui, carissimi, dobbiamo registrare un ultimo episodio, davvero impressionante. 17 giorni prima della sua morte, la giovane Stefanina Durier, che assistette, come vedemmo, nella camera del santo alla fine di una delle sue estasi, veniva ad Ars dopo un ritiro appunto alla Louvesque. Attenti, al confessionale del santo si svolse questo dialogo commovente che si direbbe già quasi dell'altro mondo. Ascoltiamolo. Padre, mi sembra di non aver fatto un buon ritiro, perché alla Louvesque ero preoccupata della vostra salute, credendovi ammalato. È vero, rispose egli. È vero che al presente non sono ammalato, ma la mia carriera è finita, è il mio ultimo anno. Questo ve lo dissi altre volte per sviare una vostra inutile curiosità, ma ora ve lo dico come lo so, è il mio ultimo anno. Non parlate però di questo, ho pochi giorni di vita e ho bisogno di questo tempo per prepararmi. Se voi lo dite, si vedrà la gente a calcarsi per le confessioni e io ne sarei affaticato. Ma voi siete già preparato alla morte, padre. Io non sono che un grande peccatore. Vedete, io piango a questo pensiero. Ma che farò io allora? Gli chiede la penitente. Se avrò la fortuna di andare in cielo, chiederò al Signore che continua ad essere sempre la vostra guida, dice il curato d'Ars. Padre, domandategli di lasciarvi ancora qualche tempo in mezzo a noi. No, non posso domandargli questo. Il Signore non lo permetterà. Io lascerò presto il mondo. Poi, fra abbondanti lacrime, aggiunse, Io non so se ho adempito bene tutti gli obblighi del mio ministero. Padre, se vi affliggete voi, che ne sarà di me che devo vivere sempre nel mondo? Quello che fate voi non presenta dei pericoli, dice il curato. Non fa spavento tanto quanto il mio ministero di sacerdote. Padre mio, il vostro lavoro è ben migliore del mio. Risposta: ah, come temo la morte, sono un grande peccatore. E allora la penitente dice: la bontà di Dio, l'avete insegnato voi stesso, è ben più grande di tutte le nostre colpe. Vorrei essere sicura come voi di andare in cielo, ma padre, quando morrete? Risposta: se non è alla fine di questo mese, sarà in principio del mese prossimo. Guardate che è precisissimo. Siamo in luglio, eh? Allora la ragazza chiede: come potrò io sapere il giorno se voi non me lo dite? Risposta: qualcuno ve lo dirà. Assisterete ai miei funerali dopo di aver passato la notte accanto al mio letto di morte. Beh, la giovane Durier, Stefanina Durier, non osava prestare fede a simile predizione, ma prima di assolverla il curato ritornò con insistenza su questo pensiero. Figlia mia, ricevete l'ultima assoluzione del padre della vostra anima. Finita la confessione, Stefanina Durier chiese ancora: di grazia, padre, ditemi il giorno in cui morrete. No, non ve lo dirò. Sareste capaci di fermarvi qui e avreste troppe seccature, ma lo saprete a suo tempo. Bene, Stefanina Durier partì il 22 luglio con diverse commissioni di Don Vianney e, giunta a Rohan, 12 giorni dopo incontrò il padre Vadon, che le disse: ho saputo che il curato d'Ars è ammalato. Allora la giovane ricordò le parole del santo e si mise in cammino per Ars, ma non doveva più rivedere vivo quello che lei chiamava il padre della sua anima. Difatti, giunta alla vecchia canonica alle 5 di sera, non intese altro che rumore di singhiozzi, poiché il santo era già morto la notte precedente. Concludiamo, carissimi, ora diamo senz'altro spazio. Iniziamo le tre letture della prossima domenica, che è la quinta di Pasqua, quindi è la quarta dopo Pasqua. Prima lettura, la scelta e la consacrazione dei primi 7 diaconi, tra cui emerge la figura di Santo Stefano. Siamo nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 6, i primi 7 versetti. Dagli Atti degli Apostoli: in quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Ecco, vi ricordo che il ritornello del Salmo è il seguente: volgiti a noi, Signore, in te speriamo, dal Salmo 32. Adesso passiamo subito alla seconda lettura, che è tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 2, versetti 4-9. Ecco, una lettura molto famosa, che culmina con la solenne affermazione: voi siete la stirpe eletta, il regal sacerdozio, la gente santa. Quindi è una lettura sulla Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo: Carissimi, stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia. Adesso passiamo subito al brano evangelico, di cui vi sono già stati anticipati i tratti salienti, che consistono appunto nelle due frasi che abbiamo sentito. Siamo nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 14, i primi 12 versetti. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre». Parola del Signore. Ecco, penso che il primo grande richiamo del Vangelo di oggi sia un richiamo al paradiso, ovvero all'aldilà. Noi siamo destinati al paradiso e non c'è niente da fare, eh? Qua giù sulla terra non troveremo mai quella gioia per cui siamo stati creati. E guardate, questo è il paradosso, che siamo stati creati per la gioia, perciò la cerchiamo con tutte le nostre forze, ma qui sulla terra la gioia per cui siamo stati creati non la troviamo mai. Perché? Come mai una cosa del genere? Beh, evidentemente perché siamo destinati a un'altra vita. Perché è da qualche altra parte che troveremo la gioia per cui siamo stati creati. E Gesù oggi nel Vangelo ci parla appunto di un posto che Lui ci tiene preparato e che è andato a prepararci lassù in cielo. Ecco, dice: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Dunque lassù c'è un posto che ci attende. E notate, un posto stabile, una sedia stabile, una poltrona stabile. Lassù non è come su questa terra, dove i posti sono instabili. sapete che c'è gente che si scervella giorno e notte, no? Pur di raggiungere un certo obiettivo, per esempio nella carriera. E siccome vuole raggiungerlo a tutti i costi, ecco che tutti i mezzi sono buoni, mezzi leciti e anche mezzi illeciti. Quindi sgambetti, gomitate, diffamazioni, denunce, eccetera. Tutto è buono per raggiungere lo scopo. E cosa non si farebbe pur di avanzare nella carriera? Ma poi una volta raggiunta quella posizione tanto ambita, poi bisogna mantenerla, E anche questo non è per nulla facile, vero? Fino a quando, con tutti i tuoi studi, ci pensa il Signore a toglierti da quel posto? Basta che ti mandi una malattia un po' seria, o ti faccia piombare in un bel esaurimento, o ti tolga qualche persona cara su cui ti appoggiavi tanto, ed ecco che il gioco è fatto, Tu non sei più in grado di occupare quel posto conquistato con tanta fatica e anche con qualche imbroglio. Ecco, passa la scena di questo mondo. Il tempo ormai si è fatto breve, dice San Paolo. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero. Quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo. Ecco, 1 Corinzi 7,31. Dunque Gesù, parlandoci di quel posto che lui ci tiene preparato in paradiso, Gesù sembra che ci dica oggi: non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignuola e ruggine consumano, dove ladri scassinano e rubano. No, accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco, Matteo 6, 19, 21. Dunque non dobbiamo temere Gesù che torna, che scende per prenderci con sé. In pratica non dobbiamo temere la morte, no. Appunto perché la morte è il cammino necessario da percorrere per poter occupare quel posto lassù. Difatti Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore. Poi aggiunge: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ecco, dunque davanti al pensiero della morte dobbiamo ravvivare la fede. E quel momento che verrà per tutti non deve farci paura, no. Perché in quel momento ci sarà Lui accanto, per rendere questo cammino necessario più agevole, perché diventi più facile, appunto più agevole, e tutto si svolga nel migliore dei modi. Ecco, l'unica grazia importante che dobbiamo chiedere per quel giorno è quella di poter ricevere i sacramenti della confessione, della comunione, in forma di viatico, e dell'olio santo. E i sacramenti sono appunto il modo concreto per metterci in contatto, direi anche fisico, con Cristo. Ma sappiamo, carissimi, che la Chiesa, nella sua saggezza, ha pensato anche a chi in quel giorno, per vari motivi, non può e non potrà ricevere i sacramenti, concedendo ugualmente la cosiddetta indulgenza plenaria in articolo mortis, che vale a cancellare tutti i tuoi peccati e anche le pene residue che dovresti scontare a causa dei tuoi peccati. Ecco, basta che l'anima, basta che la persona sia intimamente pentita e abbia quindi delle buone disposizioni d'animo, delle buone disposizioni interne. Ma ora, carissimi, concentriamoci un attimo sulla frase: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, fino adesso abbiamo parlato del posto che il Signore ci tiene preparato lassù. Ecco, a questo proposito Sant'Agostino ci fa notare una cosa importante, che cioè il Signore ci avrebbe in certo senso preso in giro se ci avesse detto soltanto: io sono la verità e la vita, e non avesse anche detto prima: io sono la via. E certo, Lui è la verità e la vita, d'accordo, ma come arrivarci se nessuno ci aiuta? Com'è possibile raggiungere la verità e la vita che è Lui stesso? No, non temere, dice pressappoco Sant'Agostino, non temere di essere incapace a raggiungere la verità e la vita. E no, perché lui ancor prima ha detto: io sono la via, io sono la strada. Ecco, io sono la verità e la vita, d'accordo, ma io sono anche la strada, la via che dovete percorrere per impadronirvi di questi due beni essenziali. E proprio in base a questa solenne affermazione di Gesù, contenuta nel Vangelo di Giovanni, si dice giustamente che la religione cristiana non predica una dottrina, ma predica una persona. E questa persona è appunto Cristo, il quale, notate, si pone come meta da raggiungere, ma nello stesso tempo anche come mezzo, come veicolo, come cammino da percorrere per raggiungere quella meta. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dunque, come un invito caldo, solenne, ad attaccarci a Lui con tutte le forze, se mi consentite l'espressione, Cristo deve essere il nostro grande idolo, ecco, ossia deve essere il grande oggetto, il più grande oggetto dei nostri pensieri e delle nostre premure. E sì, perché Cristo è l'unico in grado di appagare pienamente le nostre brame, i nostri desideri, le nostre aspirazioni. Ditemi un po', cosa c'è di più importante per un uomo della verità e della vita? In fondo, noi cosa cerchiamo continuamente se non la verità e la vita? E provate a pensarci, l'uomo anzitutto è alla continua ricerca della verità, è certo. L'uomo si accorge di essere nel buio, di aver bisogno di capire tante cose, soprattutto di capire il senso della sua vita, no? Per esempio, da dove viene, dove sta andando, cosa ci sarà dopo, eccetera. Anzi, di capire chi ci sarà dopo. Dunque l'uomo, anche se magari non se ne accorge, è alla continua ricerca di Dio. Ma questo non basta, Questo non basta, cioè l'uomo non basta aver scoperto Dio e averne compreso in certo senso la natura in modo teorico, no, ma l'uomo poi vuole anche incontrare Dio, lo vuole toccare, vedere, insomma lo vuole possedere, appunto perché sente che Dio solo può dargli la vita, quella vita piena cui aspira con tutte le sue forze. Ed ecco che Gesù, ponendosi davanti all'uomo come verità e vita, ecco che accorcia le distanze, vero? Non avete bisogno di fare sforzi sovrumani per raggiungere Dio, per impadronirvi della verità e della vita, no, perché il Padre mi ha mandato sulla terra appunto perché voi poveri uomini, incontraste in me la verità e la vita. E sì, perché in certo senso non c'è differenza tra me e il Padre. Pur essendo due persone distinte, tuttavia siamo una cosa sola, siamo un solo Dio con lo Spirito Santo. Io sono nel Padre, il Padre è in me. A questo ci dovete credere, se non altro credetelo per i miracoli che ho fatto e per tutti quelli che poi hanno fatto i miei discepoli nel corso della storia, invocando il mio nome. Dunque Cristo ci invita oggi in definitiva a un grande atto di fede in Lui. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Questa è la richiesta che oggi Filippo pone a Gesù, no? Ma se ci pensiamo bene, carissimi, qui Filippo non fa altro che esprimere un sentimento comune, vero? È vero, è questo Dio, lo vorremmo vedere subito, senza passare attraverso il travaglio della fede. Eh sì, perché esercitare la fede è difficile. Essere sicuri che Dio ti vuol bene, ti segue con amore, in mezzo alle tante difficoltà della vita, non è sempre facile. Anzi, in certi casi è decisamente difficile. Per cui, come tendenza naturale, vorremmo tutti saltare questa fase terrena della fede, no? Vorremmo tutti vederlo subito questo Dio. Mostraci il Padre e ci basta. Anche se poi quando ci dicono che per vedere Dio bisogna prima morire, allora la cosa ci dispiace molto e preferiamo non vederlo perché siamo troppo attaccati alla terra e ci dispiace troppo di lasciarla, di staccarcene. Dunque Filippo esprime qui un sentimento comune. Mostraci il Padre e ci basta. Ma Gesù protesta e risponde che questo l'apostolo Filippo dovrebbe averlo già capito. Che cioè proprio vedendo Lui, Lui uomo, che vediamo il Padre. Dunque attacchiamoci a Gesù via verità e vita. Con la certezza che attaccandoci a Lui noi ci assicuriamo quel famoso posto che Lui ci tiene preparato lassù. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.